Capitolo 6. Corinna si lusingava in segreto di avere guadagnato il cuore di Osvaldo, ma siccome ella conosceva la sua riservatezza e severità, così non aveva ardito dimostrargli tutto l'interesse che le ispirava, quantunque ella fosse disposta per carattere a nulla celare di quello che risentiva. Forse la credeva pure che anche parlando di oggetti stranieri a questo sentimento, la loro voce avesse un accento che facesse trasparire la loro scambievole affezione e che una confessione segreta di amore fosse dipinta nelle loro occhiate e in quel linguaggio malinconico e velato che penetra così profondamente nell'anima. Una mattina, allorché Corinna si preparava per continuare le sue passeggiate con Osvaldo, ella ricevette da lui un biglietto piuttosto cerimonioso, col quale l'avvisava che il cattivo stato della sua salute lo avrebbe ritenuto in casa per qualche giorno. Una dolorosa inquietudine serrò il cuore di Corinna e la temette di primo lancio che non fosse malato pericolosamente, ma il conte d'Erfeuil, che la vide la sera, le disse che era uno di quegli accessi di malinconia ai quali era frequentemente soggetto e nei quali non voleva parlare con nessuno. Io medesimo, soggiunse allora il conte d'Erfeuil, quando è in quello stato non lo vedo. Quell'io medesimo dispiacque molto a Corinna, ma fu ben cauta di manifestare questo suo dispiacere al solo uomo che potesse darle delle notizie di Lord Nelvil. Ella lo interrogò, lusingandosi che un uomo così leggero, almeno apparentemente, le avrebbe raccontato tutto ciò che sapeva. Ma inaspettatamente, sia che gli volesse nascondere sotto l'aria del mistero che Osvaldo nulla gli aveva confidato, sia che gli credesse più onorevole ricusare, rifiutare, piuttosto che l'accordare quanto gli si domandava, fatto sta che egli opponeva un imperturbabile silenzio alla curiosità di Corinna. Ella, che aveva avuto sempre dell'ascendente su tutti quelli ai quali aveva parlato, non poteva comprendere il perché i suoi mezzi di persuasione fossero senza effetto rapporto al conte d'Erfeuil. Non sapeva ella, forse, che l'amor proprio è la cosa più inflessibile che vi sia al mondo? Quale risorsa rimaneva dunque a Corinna per sapere ciò che passava nel cuore di Osvaldo? Scrivergli? Quanta precauzione è mai necessaria nello scrivere. E Corinna era soprattutto amabile per la sua disinvoltura e la sua naturalezza. Scorsero 3 giorni e lei non vide mai Lord Nelvil. Fu tormentata sempre da un'agitazione mortale. Che gli ho dunque fatto? Diceva tra sé per allontanarlo. Io non gli ho detto mai di amarlo. Io non mi sono fatta cotale torto, così terribile in Inghilterra e così perdonabile in Italia. L'hai forse indovinato? Ma perché mi stimerebbe di meno? Osvaldo non si era allontanato da Corinna se non perché si sentiva trascinato vivacemente dalle sue attrattive. Quantunque non avesse dato parola di sposare Lucilla Egermond, sapeva tuttavia che era stata intenzione del padre suo di dargliela per consorte e desiderava di conformarvisi. Finalmente Corinna non era conosciuta sotto il suo vero nome e conduceva da molti anni una vita anche troppo indipendente. Tale matrimonio, si immaginava Nelvil, non avrebbe ottenuto l'approvazione di suo padre, ed egli capiva bene che non poteva, con tale passo, espiare i suoi torti verso di lui. Ecco quali erano i suoi motivi per allontanarsi da Corinna. Egli aveva formato il progetto di scriverle, lasciando Roma, tutto ciò che lo condannava a una somigliante risoluzione, ma siccome non si sentiva per eseguirla abbastanza di forza, così si limitava a non andare da lei, e questo sacrificio, tuttavia, gli apparve, fino dal secondo giorno, penoso di troppo. Corinna era colpita dall'idea che non avrebbe rivisto altrimenti Osvaldo e che egli se ne sarebbe andato via senza dirle addio. Ella si aspettava ogni momento di ricevere la nuova della sua partenza e questo timore esaltava talmente il suo sentimento che ella si sentì presa tutta a un tratto dalla passione, da quell'artiglio di avvoltoio sotto di cui soccombono l'indipendenza e la felicità. Non potendo starsene in casa, dove Lord Nelvil non si vedeva più, ella errava qualche volta nei giardini di Roma con la speranza di incontrarlo. Ella tollerava meglio le ore nelle quali, passeggiando All'avventura correva la sorte di rivederlo. La immaginazione ardente di Corinna era la sorgente del suo talento, ma per sua cattiva fortuna questa immaginazione si confondeva con la sua naturale sensibilità e la gettava sovente in uno stato di estrema afflizione. La sera del quarto giorno di questa crudele lontananza c'era la luna piena e Roma ha molte attrattive nel silenzio della notte. Sembra allora che essa sia solamente abitata dalle sue illustri ombre. Corinna, ritornando dalla casa di una delle sue amiche oppressa dal dolore, smontò di carrozza e si riposò per pochi istanti presso la fontana di Trevi, dinanzi a quella copiosa sorgente che sgorga in cascata in mezzo a Roma. E sembra come la vita di quel tranquillo soggiorno. Quando questa cascata si ferma per qualche giorno, si direbbe che Roma rimane sbalordita dallo stupore. Nelle altre città si ha bisogno dello strepito delle carrozze, a Roma si ha troppo mormorio da questa fontana immensa che sembra come l'accompagnamento necessario dell'esistenza astratta che vi si mena. L'immagine di Corinna si dipinse in quell'onda così pura che porta da molti secoli il nome di acqua virginale. Osvaldo, che si era soffermato nel sito medesimo pochi momenti dopo, scorse il leggiadro viso della sua amica che si replicava nell'acqua. Egli fu preso da affetto talmente vivo che non sapeva sulle prime se fosse la sua immaginazione che gli facesse comparire l'ombra di Corinna, come tante volte gli aveva mostrato quella di suo padre. Egli si piegò verso la fontana per discernere meglio e le sue fattezze vennero a riflettersi dalla stessa parte di quelle di Corinna. Ella lo riconobbe, cacciò un grido e si lanciò verso di lui rapidamente e lo afferrò per il braccio, quasi avesse temuto che gli volesse fuggirle di nuovo. Ma appena si fu data in preda a questo movimento troppo impetuoso, ella arrossì, ricordandosi del carattere di Lord Nelvil di aver mostrato con tanta vivacità ciò che sentiva nel suo interiore, e lasciando cadere la mano che stringeva Osvaldo, si coprì il volto con l'altra per nascondere il suo pianto. Corinna, disse Osvaldo, cara Corinna, dunque la mia assenza vi ha resa infelice? Oh sì, ella rispose. E voi ne eravate sicuro? Perché dunque farmi del male? Ho io meritato di soffrire per parte vostra? No, gridò Lord Nelvil, no, senza dubbio. Ma se io non mi credo libero, se io sento di non avere in cuore che turbamenti e pene, perché vi dovrei mai associare a questo tormento di sentimenti e di timori? Perché? Oh, non è più tempo, interruppe Corinna, non è più tempo. Il dolore è già nel mio seno. Abbiate qualche riguardo per me. Voi nel dolore? Riprese Osvaldo. In mezzo a così brillante carriera, con tanti successi fortunati, con immaginazione, con tanto vivace. Fermatevi, replicò Corinna. Voi non mi conoscete. Di tutte le mie facoltà, la più potente è la facoltà di soffrire. Io sono nata per la felicità. Il mio carattere è franco. La mia immaginazione è ardente. Ma la pena eccita in me. Un non so quale impetuosità che può turbare la mia ragione o darmi la morte. Ve lo ripeto di nuovo, abbiate alcun riguardo per me. Il brio e la nobiltà non mi sostengono che apparentemente vi sono nella mia anima abissi di tristezza che io non potevo evitare se non preservandomi dall'amore. Corinna pronunziò queste ultime parole con tale espressione che commosse vivamente Osvaldo. Io verrò a vedervi domattina, riprese. Non ne dubitate, Corinna. Me lo giurate? Gli disse ella con inquietudine che si sforzava invano di nascondere. Sì, ve lo giuro, gridò Lord Nelvil e scomparve. Libro quinto: Le tombe, le chiese e i palazzi. Capitolo primo. Il giorno seguente, Osvaldo e Corinna furono ambedue assai imbarazzati nel rivedersi. Corinna non aveva più fiducia di poter ispirare amore. Osvaldo era malcontento di se medesimo. Egli ravvisava nel suo carattere un genere di debolezza che lo irritava qualche volta contro i suoi propri sentimenti, come contro una tirannide. E tutte e due procurarono di non parlarsi del loro reciproco affetto. Io vi propongo oggi, disse Corinna, una passeggiata assai pomposa. Andiamo a vedere le tombe, andiamo a vedere l'ultimo asilo di quelli che vissero tra i monumenti dei quali abbiamo contemplato le rovine. Sì, rispose Osvaldo. Avete indovinato quel che conviene alla disposizione attuale della mia anima e pronunciò tali parole con un accento tanto doloroso che Corinna tacque per alcuni momenti, non avendo l'ardire di provarsi a parlare. Ma ripigliando coraggio per il desiderio di alleviare Osvaldo dalle sue pene, con l'interessarlo ardentemente per tutto ciò che vedevano insieme, ella gli disse: Voi lo sapete, milord, invece che presso gli antichi l'aspetto delle tombe scoraggiasse i viventi. Si credeva di ispirare nuova emulazione collocando le tombe sulle pubbliche vie affinché, col ravvivare nei giovani la memoria degli uomini illustri, gli invitassero tacitamente a imitarli. Ah, quanto invidio, rispose Osvaldo, sospirando, tutti coloro il cui cordoglio non è mischiato di rimorsi. Voi? Dei rimorsi? Esclamò Corinna. Voi? Ah, io sono certa che in voi sono una virtù di più, uno scrupolo del cuore, una delicatezza eccessiva. Corinna, Corinna, non vi internate d'avvantaggio in questo argomento, interruppe Osvaldo. Nella vostra fortunata contrada i tetri pensieri spariscono alla luce dei cieli, ma il dolore, che ha fisso le sue radici nel fondo della nostra anima, sconquassa per sempre la nostra esistenza. Voi mi giudicate male, rispose Corinna. Ve l'ho detto già un'altra volta. Benché il mio carattere sia fatto per godere all'estremo della felicità, soffrirei più di voi se... Ella non terminò e mutò discorso. Il mio solo desiderio, milord, continuò dopo qualche pausa, è di distrarvi per qualche momento. Io nulla spero di più. La dolcezza di questa risposta commosse Lord Nelvil e, intravedendo un'espressione di malinconia nelle occhiate di Corinna, tanto piene naturalmente di interesse e di fuoco, si rimproverò di rattristare una persona nata per le impressioni vivaci e dolci e decise di riportarvela. Ma l'agitazione che provava Corinna, rapporto ai disegni di Osvaldo sulla possibilità della sua partenza, turbava affatto la consueta sua serenità. Ella condusse Lord Nelvil fuori delle porte della città, sulle vestigia della via Appia. Queste tracce si distinguono in mezzo alla campagna di Roma, per tombe a destra e a sinistra, le cui rovine si scorgono in grandissima lontananza, diverse miglia al di là delle mura. I romani non tolleravano che si seppellissero i morti nell'interno della città. Vi erano solamente ammesse le tombe degli imperatori. Ciò nonostante, un semplice cittadino, per nome Publio Bibulo, ottenne questo favore in ricompensa delle sue virtù private. I contemporanei, infatti, onoravano più volentieri queste di tutte le altre. Si passa per andare alla via Appia per la porta di San Sebastiano, un tempo appellata Porta Capeno. Cicerone dice che nell'uscire da questa porta le tombe che si scorgono per prime sono quelle di Metello, degli Scipioni e di Servilio. Il sepolcro della famiglia degli Scipioni è stato ritrovato in questo sito medesimo e trasportato quindi in Vaticano. È quasi un sacrilegio variare sede alle ceneri dei morti e il perturbare le rovine che le racchiudono. Si vede in qualche distanza dalla via Appia un tempio innalzato dalla Repubblica all'onore e alla virtù, un altro al nume che fece tornare Annibale indietro, il Fonte di Egeria, dove Numa andava a consultare la divinità degli uomini da bene, la coscienza interrogata nella solitudine. Sembra che attorno a queste tombe sussistano ancora i soli lineamenti delle virtù. Non si trova accanto a questi luoghi, dove riposano defunti tanto illustri, alcun monumento dei secoli del delitto. Si sono circondati di onorevole spazio dove possono regnare le più nobili rimembranze senza essere disturbate. L'aspetto della campagna intorno a Roma ha qualcosa di singolarmente notevole. Esso è in verità un deserto, perché non vi sono né alberi né abitazioni, ma il terreno è ricoperto di piante naturali che l'energia della vegetazione rinnova continuamente. Tali piante parassite si insinuano nelle tombe, abbelliscono le loro rovine e sembrano essere là unicamente per onorare i morti. Queste pianure incolte Debbono spiacere agli agricoltori, agli amministratori, a tutti quelli che fanno speculazioni sui terreni e vogliono coltivarli per i bisogni dell'uomo, ma le anime riflessive che la morte occupa quanto la vita si compiacciono di contemplare questa campagna di Roma dove il tempo presente non ha impressa alcuna traccia, questa terra che ama teneramente i suoi morti e li ricopre con la vaghezza di inutili fiori, di inutili piante che si strisciano sul suolo e non si alzano mai abbastanza per separarsi dalle ceneri che sembrano accarezzare. Osvaldo convenne che in quel luogo, più che in qualunque altro, si dovesse gustare la calma. L'anima non vi soffre tanto per le immagini rappresentatele dal dolore. Pare che si partecipi ancora con quelli che non sono più delle attrattive di quell'aria, di quel sole, di quella verdura. Corinna osservò l'impressione che ne riceveva Lord Nelvil e ne concepì qualche speranza. Ella non si lusingava di consolare Osvaldo e non bramò neppure di cancellare dal suo cuore il giusto cordoglio che doveva alla perdita di suo padre, ma vi è anche nel sentimento del cordoglio qualche cosa di dolce e di armonioso che bisogna ingegnarsi a far conoscere a quelli che non ne hanno provato che solo amarezza, e questo è solo bene che si possa fare loro. Fermiamoci qui, disse Corinna, in faccia a questa tomba, la sola che ci rimane ancora quasi intera. Non è questa la tomba di un romano celebre, è quella di Cecilia Metella, giovane fanciulla a cui suo padre ha fatto erigere questo monumento. Oh, felici, riprese Osvaldo, felici figli che muoiono nelle braccia del loro padre e ricevono la morte nel seno che loro diede la vita. La morte stessa allora perde per essi la sua acuta puntura. Sì, soggiunse Corinna con emozione, felici coloro che non sono orfani. Osservate, si sono scolpite delle armi su questa tomba, benché racchiuda una donna. Ma le figlie degli eroi possono avere sui loro sepolcri i trofei del loro padre. Quale bella unione quella dell'innocenza e del valore. C'è un'elegia di Properzio che dipinge meglio di qualunque altro scritto dell'antichità la dignità delle donne presso i romani, più imponente e più pura della gloria di cui godevano nei tempi della cavalleria. Cornelia, morta nella sua giovinezza, indirizza al suo sposo gli addii o le consolazioni le più commoventi e vi si sente quasi in ogni parola tutto ciò che c'è di rispettabile e di sacro nei legami della famiglia. Il nobile orgoglio di una vita senza macchia si dipinge in questa poesia maestosa dei latini, in questa poesia nobile e fiera, come i padroni del mondo. Sì, dice Cornelia, nessuna macchia ha sporcato la mia vita, dall'Imeneo fino al Rogo. Sono vissuta pura tra le due fiaccole. Quale ammirabile espressione, esclamò Corinna, quale immagine sublime e com'è degna d'invidia la sorte della donna che può avere così conservato la più perfetta unità nel suo destino, che non porta alla tomba che una sola memoria. Ciò è bastante per una vita. Nel terminare queste parole, gli occhi di Corinna si riempirono di lacrime. Un sentimento crudele, un sospetto penoso si impossessò del cuore di Osvaldo. Corinna, esclamò, Corinna! La vostra anima delicata ha ella forse qualche cosa da rimproverarsi? Se io potessi disporre di me, se potessi offrirmi a voi, non avrei dei rivali nel passato, potrei io essere orgoglioso della mia scelta? Una gelosia crudele turberebbe essa mai la mia felicità? Io sono libera, rispose Corinna, e vi amo come non ho mai amato. Che volete voi da vantaggio? Fu egli duopo il condannarmi a confessarvi che prima di avervi conosciuto la mia immaginazione ha potuto ingannarmi sull'interesse che mi ispirava. Non vi è egli nel cuore dell'uomo una pietà divina per gli errori che il sentimento, o almeno l'illusione del sentimento, avrebbe fatto commettere? Nel terminare queste parole, un modesto rossore coprì il suo viso. Osvaldo si raccapricciò, ma tacque. Vi era nello sguardo di Corinna un'espressione di pentimento e di timidezza che non gli permise di giudicarla rigorosamente, e gli parve che un raggio del cielo scendesse su di lei per assolverla. Le prese la mano, la strinse al cuore e si mise in ginocchio innanzi a lei, senza dire nulla, senza promettere nulla, ma contemplandola con sguardo amoroso che lasciava tutto sperare. Oh, credetemi, disse Corinna. Non formiamo mai alcun disegno per gli anni che scorreranno. I momenti più beati della vita sono quelli anche che ci accorda la sorte benefica. Sarei lì forse in mezzo ai sepolcri che crederemo tanto all'avvenire. No, riprese Lord Nelvil, io non credo all'avvenire che ci separerebbe. Questi 4 giorni di assenza mi hanno troppo bene istruito che io non esistevo prima di conoscere voi. Corinna non rispose nulla a queste dolci parole, ma le raccolse religiosamente nel suo cuore e la temeva sempre, prolungando il discorso sul sentimento che solo la occupava di eccitare Osvaldo a dichiarare i suoi progetti prima che una frequentazione più lunga gli rendesse la separazione impossibile. Spesse volte anche lei dirigeva appositamente la sua attenzione verso gli oggetti esteriori, come quella sultana delle novelle arabe che cercava di accattivarsi, con molti racconti diversi, l'interesse di colui che amava, per prorogare la decisione della sua sorte fino al momento in cui i vezzi del suo spirito avrebbero riportato la vittoria. Capitolo secondo. Non lontano dalla Via Appia, Osvaldo e Corinna si fecero mostrare i colombari, dove gli schiavi sono riuniti coi loro padroni, dove si vede in una stessa tomba tutto ciò che visse tramite la protezione di un solo uomo o di una sola donna. Le donne di Livia, per esempio, quelle che consacrate una volta alle cure della sua bellezza, lottavano per lei contro il tempo e disputavano agli anni qualcuna delle sue attrattive, sono collocate accanto a lei in piccole urne. Pare di vedere una collezione di morti oscuri attorno a un morto illustre, ugualmente taciturno, che la sua corte. In poca distanza di là si scorge un campo in cui erano sepolte vive le vestali infedeli ai loro voti, per esempio singolare di fanatismo in una religione naturalmente tollerante. Io non vi condurrò alle catacombe, disse Corinna a Lord Nelvil, quantunque per singolare accidente esse siano al di sotto di questa medesima Via Appia e quelle tombe abitino così sotto altre tombe. Ma a quell'asilo dei cristiani perseguitati a qualche cosa di così tetro e terribile che non mi posso risolvere a ritornarci. Non c'è là quella malinconia interessante che si respira nei luoghi aperti, c'è un orrendo carcere presso al sepolcro, il supplizio della vita accanto agli orrori della morte. Senza dubbio una si sente penetrare di ammirazione per gli uomini che con la sola potenza dell'entusiasmo hanno potuto sopportare quella vita sotterranea e si sono in tale modo separati interamente dal sole e dalla natura, ma l'anima si trova così incomodata in quel sito che non le può venire alcun bene. L'uomo è parte della creazione, serve quindi che trovi la sua armonia morale nell'insieme dell'universo, nell'ordine abituale del destino, e certe eccezioni violente e terribili possono scuotere il pensiero per lo stupore, ma spaventano talmente l'immaginazione che la disposizione abituale dell'anima non potrebbe farvi alcun guadagno. Andiamo piuttosto, continuò Corinna, a vedere la piramide di Cestio. I protestanti che muoiono qua sono tutti sepolti attorno a questa piramide e questo è un dolce asilo, tollerante, liberale. Sì, rispose Osvaldo, molti dei miei compatrioti hanno trovato là il loro ultimo soggiorno. Andiamoci, forse sarà in tale modo almeno che non vi lascerò mai. Corinna fremette a queste parole e la sua mano tremava nell'appoggiarsi alle braccia di Lord Nelvil. Io sto meglio, egli riprese, molto meglio dopo che vi ho conosciuta. E nel viso di Corinna lampeggiò di nuovo quella gioia dolce, affettuosa, che era la sua espressione abituale. Cestio presiedeva ai giochi dei Romani. Il suo nome non si trova nella storia, ma egli si è reso illustre con la sua tomba. La forte piramide che lo racchiude difende la sua morte dall'oblio che ha cancellato interamente la sua vita. Aureliano, temendo che si potessero servire di questa piramide come di una fortezza per attaccare Roma, la fece rinchiudere nelle mura che esistono ancora, non come inutili rovine, ma come il recinto attuale di Roma moderna. Si dice che le piramidi imitano con la loro forma la fiamma che si alza sul rogo. Certo è che questa forma misteriosa attrae gli sguardi altrui e dà un carattere pittoresco a tutti i punti di vista di cui essa fa parte. In faccia a questa piramide rimane il Monte Testaccio, sotto il quale vi sono grotte fresche all'estremo e nelle quali si fanno conviti durante l'estate. I banchetti a Roma niente sono disturbati dall'aspetto delle tombe. I pini e i cipressi che si vedono da distanza nella ridente campagna d'Italia ricordano in simile modo tali solenni rimembranze. Gli antichi sentirono sempre che l'idea della morte ha la sua voluttà, l'amore, le feste la richiamano alla memoria e l'affetto di una gioia viva sembra accrescersi dall'idea medesima della brevità della vita. Corinna e Lord Nelvil se ne tornarono dal loro viaggio alle tombe, venendo lungo le sponde del Tevere. Era una volta coperto di navigli e attorniato di palazzi, le sue inondazioni medesime erano una volta guardate come presagi. Era il fiume profeta, la divinità tutelare di Roma. Si direbbe adesso che scorre in mezzo alle ombre, tanto è solitario e tanto compare cupo il colore delle sue acque. I più bei monumenti delle arti, le statue, le più ammirabili, sono state gettate nel Tevere e sono nascoste sotto le sue onde. Chissà se per cercarle non si devierà un giorno dal suo letto. Ma quando si riflette che i capolavori del genere umano sono forse là, davanti a noi, e che un occhio più penetrante li vedrebbe attraverso le onde, si prova una non so quale emozione che rinasce in Roma sotto diverse forme.